24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:30 minuti, cari ascoltatori, eccoci per una nuova puntata di 24 mattino e subito, come avete sentito anche in GR24, vi ricordo il nostro sondaggio di oggi, un sondaggio già votatissimo, rischia di diventare il più votato da quando li facciamo, da settembre. Accetta, non accetta, pare che non accetti, parliamo di Romano Prodi, che ha detto non credo che mi candiderò a sindaco di Bologna. La nostra domanda è questa: il PD, il Partito Democratico, dovrebbe ripartire da Romano Prodi? Che ne pensate? Ebbene, sono più di 5.000 già i voti arrivati, siete assolutamente divisi, il 49% di voi dice di sì per il momento, il 51% no. Radio24.it o Il Sole24ore.com per votare. Questo è uno dei temi della politica che troviamo sui giornali e che andiamo subito a sfogliare. In primo piano. Per la verità, alcuni giornali scelgono di aprire con la visita di Berlusconi in Israele. Vorrei vedere Israele nell'Unione Europea, così titola il Corriere della Sera, Berlusconi a Gerusalemme, così come La Stampa. L'Italia sanzioni l'Iran, pressing di Netanyahu su Berlusconi, che dice sogno Israele nell'Unione Europea, così come il Messaggero, Berlusconi, Israele entri in Europa. Israele nell'Unione Europea, il sogno di Berlusconi anche per Avvenire. Le scelte invece più legate all'attualità tra giustizia e politica è: arriva la legge antipentiti, questa è un'esclusiva di Repubblica che vedremo tra poco. E poi il Sole 24 Ore, dal quale voglio partire per trattare la politica. La prima pagina è La carica degli incerti. Questo è il titolo di apertura. Di cosa si tratta? Si tratta di un sondaggio Ipsos per il Sole 24 Ore. Non è la prima volta. Già il Sole 24 Ore l'aveva fatto nel novembre del 2009 per sondare, testare quelle che sono le opinioni degli italiani a poco meno di un mese dal voto delle regionali e delle amministrative. Ebbene, il sondaggio Ipsos è stato rifatto a distanza dunque di un paio di mesi per vedere come sono cambiate le tendenze degli italiani. Bene, molto interessante, perché leggiamo a pagina 2 da Rossella Bocciarelli: a poco meno di due mesi dalle elezioni regionali, gli italiani hanno un po' di fiducia in più sul proprio futuro economico e un po' di indecisione in più sulle proprie opzioni di voto rispetto all'ultima volta, appunto nel novembre. Andiamo a vedere, ci sono ovviamente tutti i grafici. Per esempio, se si tornasse a votare a breve, alle eventuali elezioni politiche anticipate, questa è la domanda, lei per quale di questi partiti o liste voterebbe? Il PDL è in testa al 38,1%, nell'ultimo sondaggio nel novembre 2009 era il 38%, dunque ha guadagnato un decimale. Il PD perde l'1%, è al 29,5% in questo sondaggio Ipsos, appunto, per il Sole 24 Ore. A novembre era il 30,5%, dunque ha perso un punto percentuale. La Lega Nord 10,5%, sostanzialmente più 0,2% rispetto a novembre. L'Italia dei Valori perde lo 0,4% in questo sondaggio, è al 7% rispetto al 7,4% del precedente sondaggio fatto per il Sole 24 Ore. Poi anche altre domande sulla crisi, sulla situazione della qualità della vita, sulla criminalità e la sicurezza. Sostanzialmente il 58% degli italiani dice, e questo è un altro dato interessante, il peggio della crisi è passato ma l'economia resta negativa. Dunque il Sole 24 Ore apre con questo sondaggio che va a un po' a scandagliare quelle che sono le opinioni degli italiani, le opinioni sul voto, ma anche sulla situazione economica e sulla crisi economica. Proprio riguardo alla politica, come detto, ed è anche il nostro sondaggio, tiene banco un po' nelle elezioni amministrative la decisione di Romano Prodi, pare, di non candidarsi a sindaco di Bologna. È molto caustico e graffiante come al solito Iena, alias Riccardo Barenghi, a pagina 3 della Stampa. Dopo il no di Prodi, il PD discute la nuova idea di D'Alema. Candidiamo Veltroni. Insomma, ma al di là dell'ironia o dei graffi, la discesa in campo non scalda i democratici. Pagina 15 del Corriere della Sera. Si parla di Romano Prodi e di indiscrezioni. Romano Prodi in realtà non si opporrebbe a una candidatura a sindaco di Bologna. Ancora altre indiscrezioni. Lui vorrebbe, ma la moglie, Flavia, è contraria. Poi c'è la realtà di questo Partito Democratico che cerca una pace che per ora non trova. E la realtà, scrive Maria Teresa Meli sul Corriere, è che Pierluigi Bersani in questi giorni ha sentito l'ex presidente del Consiglio al telefono, ma non gli ha mai offerto alcuna candidatura. Non ha fatto nemmeno un accenno o una mossa. E, insomma, ci sono anche varie interviste, come l'ex sindaco Guazzaloca, espressione del centrodestra, che però dice: sono pronto a sostenerlo. Ebbene sì, è lui che potrebbe salvare la città, così come le indiscrezioni appunto sulla moglie Flavia, che a pagina 14 del Corriere della Sera viene citata, come dire, sono stanca di stare in vetrina. Il tema è quello, tanto che la stampa cita in maniera testuale: alla fine prevale la tendenza Flavia Franzoni, anzi la Flavia, qualcosa di più di una moglie per Romano Prodi, scrive Fabio Martini. Di lei Prodi disse: è il mio unico consigliere politico. E dice lei invece di se stessa: io non ho fatto la scelta di non esserci, ma di esserci nascondendomi. E di fatto, si racconta in questo retroscena, Flavia Prodi non ha dimenticato la sofferenza provata da Romano dopo la caduta dell'ultimo governo, quando, richiamato da Bruxelles, fu pugnalato dai suoi stessi alleati per la seconda volta nel giro di pochi anni. E da qui, insomma, quasi il consiglio di dire: forse non è il caso. Ci sono, insomma, molti retroscena sul perché Romano Prodi non avrebbe accettato, anche se pare che non sia un no definitivo, ma si vedrà nelle prossime ore, la candidatura di Bologna. È addirittura il titolo di apertura del giornale: Prodi respinge Bersani, di titolo di apertura di prima pagina, con un editoriale di Vittorio Feltri che dice e che scrive: d'altronde che torto si può dare a Prodi, il quale due volte a Palazzo Chigi, a capo di una coalizione di governo eterogenea composta da una miriade di partiti portatori di valori e ideali diversi e spesso contrapposti, è sempre stato obbligato a interrompere prematuramente il mandato, lui che in fondo è stato l'unico in grado di contrastare con efficacia il dominio elettorale del Cavaliere. Il rifiuto del professore è giustificato, alla sua età, col suo passato, Prodi non poteva accettare di tornare ad essere mortadella, sia pure in miniatura. Comprendiamo l'amarezza di Bersani, che deve rinviare ancora il decollo. Ma decollerà? Così si chiede Vittorio Feltri, che però, insomma, è molto molto generoso, insomma, con Romano Prodi, tendenzialmente sempre invece lui molto critico e duro, invece, insomma, concede in qualche modo l'onore delle armi a Romano Prodi, così come Maurizio Belpietro su Libero nel suo editoriale è molto duro. Invece, che il PD fosse messo male l'abbiamo detto più volte, ma che lo fosse a tal punto da dover riesumare la salma di Prodi non ce lo saremmo mai aspettato, scrive Maurizio Belpietro, che invece affronta in prima pagina con una grande foto di Veronica Lario, vale a dire, insomma, l'ancora attuale moglie di Berlusconi, ma alla separazione, la vicenda appunto dei due coniugi forse più famosi in Italia che si stanno separando, il TFR di Veronica, vale a dire il trattamento di fine rapporto, 700 milioni la prima richiesta della signora, e ci sono addirittura ben le prime 5 pagine dedicate a questo. Sapete che c'è stato il primo incontro dell'udienza di riconciliazione, si sono visti, come ha rivelato il Corriere della Sera domenica scorsa, Berlusconi e Veronica Lario per una ventina di minuti in tribunale, clima gelido, così è stato descritto, una notizia che doveva rimanere segreta. Il giudice ieri si è molto adombrata, ha detto: non l'avevo detto ai cancellieri, non l'avevo detto ai miei collaboratori, non l'avevo detto perfino ai miei familiari, ma la notizia è venuta fuori. Sta di fatto che, insomma, si riparla ancora a pagina 3 del fatto che Berlusconi chiamerà in causa, secondo i suoi legali, il fatto che anche Veronica Lario avesse un compagno, si chiama Alberto Orlandi, 47 anni, questo lo rivelò Daniela Santanchè, in realtà di anni ne ha 10 di meno, 37, ed è capo del servizio di sicurezza di Villa Macherio, e con lui la signora condivide progetti, interessi e vacanze. Saremo a vedere, Libero ovviamente parla anche di tutta la divisione, il destino dell'impero, con i due figli avuti da Berlusconi dal primo matrimonio e i tre figli invece avuti da appunto Veronica Lario. Ma rimaniamo sulla politica. Chi certamente si candida, se non si candida Prodi, è il figlio di Bossi, Renzo Bossi. La Lega candida la Trota, così leggiamo dalla Stampa. Michele Brambilla, perché la Trota? Beh, perché rimase famosa la battuta di Umberto Bossi quando si parlava di delfini nella politica. Disse: mio figlio un delfino, per il momento è soltanto una trota. Da allora Renzo Bossi è la Trota per tutti. Renzo Bossi, figlio di Umberto, in corsa come consigliere di Lombardia. Nel paese dei figli di è venuto il momento di Renzo Bossi, scrive Michele Brambilla, secondo genito di Umberto. Sarà candidato alle prossime regionali, nella Lega ovviamente, a Brescia. Il vice ministro Castelli, consapevole delle maldicenze che accompagneranno l'entrata in politica del giovane Renzo, dice: niente a che vedere con altre candidature di figli, mogli o parenti vari, perché lui dovrà affrontare la campagna elettorale e ottenere le preferenze sufficienti. Vabbè, lasciamo la politica solo con la citazione che trovate un po' su tutti i giornali, abbiamo sentito anche nel nostro giornale radio. La Polverini, vale a dire la candidata del centrodestra alla Regione Lazio, apre alle coppie di fatto. PDL Polverini, scoppia di fatto, leggo il titolo dal Manifesto. La candidata apre alle unioni civili, anche se Alemanno, vale a dire il sindaco di Roma, corregge, non è nel programma. Ma questo sicuramente è un tema che farà discutere all'interno del centrodestra. Un'altra grande notizia che trovate trattata un po' su tutti i giornali, qualcuno vi dedica addirittura l'apertura, come l'Unità o il Fatto, è la testimonianza del figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo, vale a dire Massimo Ciancimino, figlio di Vito Ciancimino. Ieri ha parlato, parlerà anche oggi, credo anche domani, insomma sta testimoniando al processo contro il generale Mori. E che cosa ha detto Ciancimino? Tra le tante varie cose, quella che più sicuramente guadagna i titoli di giornali, Ciancimino, leggo dal Sole 24 Ore a pagina 17, soldi dei boss a Milano 2. Vito Ciancimino, ex sindaco mafioso di Palermo, avrebbe investito parte del suo tesoro finanziario in una grossa operazione edilizia. Milano 2, il complesso residenziale realizzato da Silvio Berlusconi negli anni 70. È quello dunque che sostiene Ciancimino. Ghedini dice: è diffamazione, lo proveremo in giudizio, siamo pronti a querelare. Ma anche sul Corriere della Sera Ciancimino Junior parla di Milano 2. Mio padre investì in quel progetto. E tra l'altro, come detto, è l'apertura di alcuni giornali, come l'Unità. L'Unità mette una foto di una casa di Milano 2, di uno scorcio di Milano 2. Il titolo di apertura di prima pagina è "Coi soldi della mafia". E vi dedica le prime 7-8 pagine, un po' anche alle quelle che vengono definite a pagina 8 le operazioni anomale della New Town di Silvio. Anche il Fatto Quotidiano di Travaglio e Padellaro apre con questa notizia: Casa Nostra, giocando ovviamente sulla costruzione di Milano 2 e Cosa Nostra. Ciancimino, denaro di mio padre e dei boss per Milano 2. Ghedini smentisce, resta il mistero sull'odore dei soldi di Berlusconi, tanto che c'è appunto un editoriale di Peter Gomez che scrive: d'accordo, Ciancimino dirà pure minchiate, così come ha fatto per la stampa vicino al centrodestra il pentito Spatuzza. È vero, finora nessuno è riuscito a capire se il figlio di Don Vito, quando afferma che suo padre finanziò la costruzione di Milano 2, sia in grado di produrre documenti a sostegno delle accuse. Punta forse a sconti di pena, vuol salvare il tesoro di famiglia, tutto giusto. Ma se non si vuole ridurre l'intera storia di questo paese a un processo, andrebbe ricordata una cosa: il presidente del Consiglio Berlusconi non ha mai voluto spiegare l'origine delle sue fortune. Non che le occasioni gli siano mancate. Per esempio, 26 novembre 2002, il tribunale che stava processando Dell'Utri si spostò a Palazzo Chigi per ascoltarlo. Berlusconi però si avvalse della facoltà di non rispondere. Il codice glielo consentiva, certo, ma glielo può consentire il decoro istituzionale, la politica, la stampa? E ancora ricorda Peter Gomez che già nel 76 Giorgio Bocca, per esempio, scriveva: un certo Berlusconi costruisce Milano 2, cioè mette su un cantiere che costa 500 milioni al giorno. Chi glieli ha dati? Non si sa. Chi gli dà i permessi e dirotta gli aerei del suo quartiere? Saremmo molto curiosi a sapere dal signor Berlusconi la storia della sua vita. Insomma, il Fatto Quotidiano punta molto su questo, come dire, non si è mai saputo e non è mai stato chiarito da dove provengano i soldi di Berlusconi. In primo piano. Arriva la legge antipentiti, questo è il titolo di apertura di Repubblica di prima pagina. Si tratta di che cosa? Di quello che il quotidiano del Zio Mauro decide di mettere appunto in ampio risalto, vale a dire un disegno di legge presentato da Giuseppe Valentino, che è colui anche il relatore del processo breve, che scrive Repubblica in un lungo articolo di Liana Milella, poi corredato da un editoriale anche di Giuseppe D'Avanzo. È un articolo abbastanza tecnico, bisogna dire, andrebbe letto tutto per capire breve. Secondo questo progetto di legge, sostanzialmente si vorrebbero bloccare o rendere più difficile le dichiarazioni dei pentiti, o meglio, rendere più difficile l'acquisizione dei pentiti. E secondo Repubblica sarebbe nato dopo le rivelazioni di Spatuzza, appunto. Si corre ai ripari per evitare nuove imputazioni contro il Premier, con già il grido d'allarme di Caro Figlio, che è un ex magistrato, nonché oggi senatore del PD, che dice: così si azzera la lotta alle cosche e c'è già qualcuno che sta brindando. Ve lo segnalo, insomma, se volete poi leggerlo. Arriva la legge antipentiti. Secondo questo disegno di legge, sostanzialmente le dichiarazioni di più collaboratori non bastano per il processo. Ma ecco, ripeto, è una cosa abbastanza tecnica, che però Repubblica mette in prima pagina. Così come voglio segnalare quello che fa il Corriere, che mette in prima pagina, è una vicenda di cui si era già parlato e che oggi viene però messa in grande risalto con delle foto. Di Pietro Contrada, il giallo delle foto. In prima pagina c'è una foto che risale al 15 dicembre 1992, 9 giorni prima dell'arresto di Bruno Contrada. Il 24 dicembre Bruno Contrada, ex numero 3 del SISDE, poi è stato condannato, insomma accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, e c'è questa foto che lo ritrae in un ristorante romano con chi? Con Antonio Di Pietro e altri commensali: il generale Vitagliano, il colonnello Conforti, il colonnello Del Vecchio, il colonnello dei carabinieri Gargiulo. Di Pietro, Contrada e la cena del 92, trovate 4 foto dell'incontro in caserma. Sono foto che, secondo questa lunga ricostruzione di un'intera pagina, pagina 6 del Corriere, erano foto che dovevano in qualche modo sparire dopo l'arresto di Contrada, nel senso che tutti gli altri commensali, forse per non essere neanche associati in questa occasione conviviale, erano d'accordo, insomma, a fare scomparire queste foto, almeno scrive così il Corriere, per anche l'imbarazzo dell'arresto di Bruno Contrada. Tra l'altro questa foto fu scattata proprio il 15 dicembre 92, cioè il giorno in cui fu ufficializzato l'avviso di garanzia contro Bettino Craxi per concorso in corruzione, ricettazione e violazione della legge sul finanziamento pubblico ai partiti. E tutte queste foto sono all'interno di un libro di cui parla il Corriere della Sera, Il colpo allo Stato. È scritto da un avvocato abruzzese che per anni è stato collaboratore di Di Pietro e poi insomma si è dissociato e ora è molto anche in lite. Ovviamente Di Pietro dice: sono menti malate quelli che pubblicano queste foto pensando di voler dire che nella mia vita, insomma, era una sorta di spia al soldo della CIA. Ma questo lo trovate sul Corriere della Sera. Trovate anche molto di questo incontro che c'è stato ieri a pranzo tra Vittorio Feltri, direttore del Giornale, e l'ex direttore d'Avvenire Dino Boffo. Ricordate tutti la vicenda quando Vittorio Feltri pubblicò delle notizie riguardanti l'allora direttore d'Avvenire, notizie che poi si rivelarono false, delle veline, insomma un po' strane, che parlarono di presunta omosessualità sbattuta in prima pagina del direttore del quotidiano dei Vescovi. Ci furono poi tutte le polemiche, le dimissioni di Dino Boffo. Si sono viste a pranzo, si sono rincontrati per un'ora. Di cosa abbiano parlato? Vabbè, non è che si sa molto, bocche cucite, ma secondo Repubblica, Feltri incontra Boffo, si apre un caso Vaticano. Perché? Perché il direttore del giornale, cioè Feltri, avrebbe chiamato in causa il segretario di Stato Bertone e il direttore dell'Osservatore Romano Vian. Come possibili, insomma, c'è questa domanda che viene messa da Repubblica. A certo punto Feltri avrebbe chiesto durante il pranzo a Boffo: ma perché il direttore Vian ce l'ha tanto con lei? Facendo quasi adombrare il sospetto che sia stato Vian in qualche modo coinvolto in questa vicenda, tanto che il Foglio in prima pagina lo scrive in maniera chiara, insomma, secondo Feltri la versione è la stessa. Quel plico su Boffo gli fu consegnato materialmente dalla Gendarmeria Vaticana. Già, ma chi è il postino? Il postino lo chiama il Foglio. Ebbene, al Foglio risulta da buona fonte che alcune telefonate fatte con lo scopo di avvalorare il documento falso sono arrivate a Feltri dal direttore dell'Osservatore Romano Gian Maria Vian. Insomma, nome e cognome sbattuto così come possibile postino di questa vicenda. Siamo in chiusura. Voglio sottolineare che cosa? Voglio sottolineare in chiusura due cose. Una ve la segnalo, non ho tempo per leggerla, ma ve la segnalo comunque. La Stampa, a pagina 11, intervista Beppino Englaro, il papà di Luana Englaro, quasi un anno dalla morte. Il mio calvario non è finito. Ho un solo sollievo, ora nessuno può più violentare mia figlia. È una bella intervista di Elena Lisa. A pagina 11 della Stampa ve la consiglio, così come Ronaldinho è stato beccato. E a me milanista, insomma, un po' così, ho avuto un sussulto di rabbia. Ronaldinho, tre notti di festa prima del derby. Il derby pare di ricordare che l'abbiamo perso 2-0. Peter mi conferma che l'abbiamo perso 2-0. Peter in regia, sì. Ebbene, il Corriere della Sera rivela questo: Digno, la festa prima del derby flop. Che cosa ha fatto prima di giocare nel derby, dove ha sbagliato peraltro un rigore, ha preso 5 in pagella un po' da tutti, non è stato al massimo della forma? Ronaldinho ha affittato una lussuosa suite a 75.000 euro, questo è il costo, tre notti di follia, l'ha lasciata questa suite giusto il sabato mattina per andare nel ritiro di Milanello, perché domenica sera c'era la partita. Notti folli in una suite di un grande albergo, 75.000 euro, la festa prima del derby flop. Caro Ronaldinho, l'aveva fatto anche qualche festa, pare, prima di Juve-Milan, ma lì si era vinto. E si sa, poi i tifosi sono così. Qui si è perso e forse Ronaldinho dovrà in qualche modo rispondere della rabbia dei tifosi. Ci fermiamo, votate allora il sondaggio. Prodi, il Partito Democratico deve ripartire da Romano Prodi. Sono le 8:16, eccoci qua, ben ritrovati a 24 mattino, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Siamo con Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno Alessandro e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Eccoci qua. Eccoci qua, dal cibo ad un argomento che mastico un po' meno volentieri. Le auto. Allora, è una notizia quella che vogliamo commentare questa mattina a Soldi e dintorni, che è in circolazione già da qualche giorno, ma è talmente significativa che probabilmente ne sentiremo parlare ancora per un po'. Stamattina, peraltro, leggiamo anche sui giornali i dati relativi alle immatricolazioni auto nel nostro paese in gennaio. I dati sono piuttosto buoni, ma ci sono un paio di case automobilistiche che invece hanno due belle rogne da sistemare. Non possono certo brindare ai dati sulle vendite di gennaio, appunto, in Italia. Allora, qual è la notizia? Stamattina, peraltro, c'è anche un paginone sul Corriere della Sera dedicato a questo problema. Toyota ha ritirato dal mercato europeo, sta portando avanti anzi questa campagna di ritiro dal mercato europeo di 1.800.000 autovetture risultate potenzialmente difettose al pedale dell'acceleratore, che potrebbe nei casi più estremi rimanere bloccato in accelerazione. Ieri si è appreso anche che in Italia invece sarebbero circa 24.000 le vetture del gruppo Peugeot Citroën coinvolte anche in questo caso in una campagna di richiamo preventivo che riguarda 97.000 vetture in tutta tutta Europa, appunto ritiro preventivo, richiamo preventivo annunciato ieri dal gruppo francese. Si tratterebbe di circa 15.000 Peugeot 107 e 9.000 Citroën C1. E allora, praticamente poi tra l'altro sono circa il 10% delle auto di questo tipo circolanti in Europa, quindi una bella percentuale. Allora, cosa succede quando una casa automobilistica compie un richiamo? Come viene diffusa l'informazione fra gli automobilisti interessati e come si fa ad avere tutta l'informazione riguardo a questo? Allora, chi abbiamo disturbato questa mattina? Naturalmente Mauro Tedeschini, direttore di Quattro Ruote. Direttore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, prima di tutto va precisato che non abbiamo i dati relativi alle auto che verranno potenzialmente interessate alla campagna di ritiro di Toyota in Italia, sì, ma che comunque questa situazione non ha provocato incidenti, per cui si tratta di una campagna di ritiro, lo ribadiamo ancora, precauzionale, preventivo, direttore, no? Sì, sì, sì, assolutamente vero, e tra l'altro bisogna dire che queste macchine non verranno ritirate, ma verranno risanate, nel senso che la Toyota manderà una lettera a tutti i possessori di queste automobili, li inviterà ad andare in concessionaria, e in concessionaria verrà fatto l'intervento di cui la Toyota proprio ieri sera verso le 8 ha dato gli estremi, nel senso che è stata trovata la soluzione a questo potenziale difetto, perché appunto, come dicevi correttamente, in Italia non abbiamo avuto casi di malfunzionamento di questo acceleratore. Dicevo, le macchine vengono ritirate e sostanzialmente verrà messo un piccolo rinforzo nell'acceleratore. I pezzi stanno arrivando dal Giappone, perché la vicenda è così delicata che evidentemente la Toyota non può permettersi di sbagliare con fornitori improvvisati, e quindi con questo rinforzo il problema, assicurano i giapponesi, verrà definitivamente risolto, insomma. E quindi ovviamente per la Toyota è un colpo molto grave, per gli automobilisti speriamo, ma insomma ovviamente dovrebbe essere così, che tutto si risolva positivamente. Come se l'industria dell'auto in questo momento avesse bisogno anche di colpi di questo tipo. Peraltro, come dicevi, direttore, adesso questo pedale dell'acceleratore deve essere sistemato, naturalmente altri fornitori si stanno impegnando a formulare eventualmente la sistemazione del danno, comunque proposte per sistemare il danno, e stamattina proprio il Sole 24 Ore, con un articolo a firma del corrispondente da Tokyo Stefano Carrer, parla proprio di un boom di offerte per approfittare dei guai di Toyota. Un po' si piove sul, piove un po' sul bagnato. Come funziona in genere in frangenti di questo tipo, direttore? Le cause automobilistiche che sono interessate e coinvolte in problemi di questo tipo, allora come comunicano ciò che accade all'automobilista? Beh, lo comunicano con una lettera raccomandata, e quindi in teoria tutti dovrebbero essere raggiunti e avere notizie appunto di questo problema. In realtà, per esperienza, noi possiamo dire che accade sempre che molte persone non vengano raggiunte da queste macchine raccomandate, magari perché hanno comprato l'automobile di seconda mano usata, i dati ancora non sono stati trascritti nelle banche dati di cui dispongono anche le case, e quindi le case più corrette, più solerti, pubblicano anche degli annunci sui giornali, ovviamente mettono in grande evidenza sui loro siti internet e anche sui siti del Ministero dello Sviluppo Economico appunto l'entità dei loro richiami, proprio perché è ovvio che è nell'interesse di tutti di far sì che questi risanamenti avvengano, perché se poi invece capita un incidente, ovviamente la casa è chiamata a rispondere. In questo caso le spese di risarcimento per i danni sono molto ingenti. Parlavi tu prima del fatto appunto che i concorrenti però nel frattempo ne approfittano, perché fino a qualche tempo fa c'era una sorta di gentleman agreement per cui non si aggrediva il concorrente in difficoltà, sapendo che poi potrebbe capitare a te il prossimo giro. In questa situazione, con un mercato così concorrenziale, in realtà, soprattutto negli Stati Uniti, dove è scoppiato per primo il bubbone, i concorrenti si sono affrettati a contattare tutti i clienti di automobili Toyota, facendo loro delle offerte sontuose, soprattutto Ford e General Motors, per vedere se, impauriti da questa vicenda che è stata molto cavalcata dalla stampa americana, sono indotti a comprare macchine americane che invece fino a qualche tempo fa sembravano le meno sicure e le meno affidabili. Ecco, no, tra l'altro stavo pensando che questo è un frangente proprio in cui non si guarda in faccia a nessuno, no, per cui tutti cercano, no, un po' di approfittare anche laddove si può fare un affare, in un momento delicato come questo lo si fa. Allora, direttore, sono situazioni frequenti che le case automobilistiche gestiscono abitualmente? Mi dicevi che negli Stati Uniti appunto c'è, come dire, quasi una sorta di abitudine a effettuare questi richiami. Poi magari ricorderò anche quali sono stati i casi più clamorosi del passato. Un'agenzia dell'ANSA nei giorni scorsi faceva un punto della situazione molto dettagliato su questo. Quello che mi colpisce è che però allora i modelli Toyota realtà interessati a questa campagna di precauzionale di ritiro per sistemare il pedale dell'acceleratore sono 8 e molti sono stati prodotti, per esempio come la Yaris interessata a questo, tra il novembre 2005 e settembre 2009. Ma come mai ci se ne accorge così tardi che l'acceleratore non funziona? Questo bubone, come dicevo prima, è scoppiato negli Stati Uniti perché là c'è un organo di vigilanza particolarmente severo e particolarmente attento che nel caso in cui riceva segnalazioni appunto di malfunzionamento di veicoli fa delle indagini estremamente approfondite e in questo caso ha sostanzialmente costretto la Toyota a intervenire. Negli Stati Uniti c'era stato un caso clamoroso di un poliziotto che era morto a seguito, si sostiene, appunto di un indurimento del pedale che si era forse addirittura bloccato, e quindi da lì sono partite le indagini e si è scoperto che in realtà i casi erano molto più di uno, e quindi questo famoso National Highway Safety Administration, sostanzialmente l'organo della sicurezza federale, ha costretto la Toyota ad aprire una procedura, ha chiesto tutta una serie di documentazioni. Alla fine la Toyota, che peraltro devo dire è una casa anche molto attenta alla qualità, seria, una casa sì, molto seria, ha deciso di prendere il toro per le corna, anche se appunto in questi casi poi si tratta sempre di dinamiche abbastanza dubbie anche da ricostruire a posteriori. Però appunto, siccome in teoria questa possibilità di un indurimento del pedale, addirittura di bloccaggio c'era, la Toyota appunto per non perdere la faccia e non perdere i clienti è stata costretta a intervenire, e siccome siamo in un mondo globale in cui quello che accade a New York si sa immediatamente a Roma o Tokyo dopo, non dico poche ore ma pochi secondi, ovviamente questa è stata una valanga, perché poi il pezzo è sostanzialmente lo stesso in tutto il mondo, e quindi a quel punto si è dovuto intervenire anche in Europa e anche in Estremo Oriente. Quindi devo dire che dal punto di vista finanziario il richiamo per Toyota è un richiamo veramente sanguinoso, perché ovviamente c'è un grosso danno di immagine, 2 milioni di auto, c'è anche un grosso danno diretto, e tra l'altro lì sarà curioso vedere se alla fine il fornitore di questo pezzo sarà costretto a pagare dei risarcimenti molto ma molto importanti. E certo, quindi una sorta di spartizione del danno. Comunque, infatti, comunque le campagne di ritiro o di controllo, come in questo caso, sono frequenti. Noi le conosciamo, per esempio, non so, l'IKEA le fa molto frequentemente, perché ci sono dei pezzi, per esempio, dell'arredamento che magari possono risultare dannosi montandoli, si montano con difficoltà. Riguarda i giocattoli molto spesso. Il tema del risarcimento ci interessa in qualche maniera a favore del consumatore? Se qualcuno ritenesse addirittura di volersi tutelare, direttore, perché ritiene di essere andato in giro con un'auto a rischio, potrebbe intentare qualche causa? Ma io penso che in questo caso si potrebbe proporre, per esempio, la famosa class action che è appena entrata in vigore in Italia. Bisognerebbe però dimostrare che c'è stata una malafede da parte del costruttore, il quale pur in presenza di un danno che conosceva non è intervenuto, o comunque che ci sia un difetto di fabbricazione talmente importante da mettere a repentaglio appunto la sicurezza di chi guida. Ci fu un caso famoso alcuni anni fa di un altro costruttore giapponese, la Mitsubishi, che aveva un armadio pieno di scheletri, di difetti che erano conosciuti ma che il management aveva occultato scientemente per non mettere a repentaglio la salute finanziaria dell'azienda. Devo dire che in quel caso le autorità giapponesi furono particolarmente dure, perché ci fu un processo e questi personaggi vennero puniti appunto in una maniera molto ma molto severa. Proprio perché poi bisogna dirlo che il Giappone ha costruito la sua immagine su questa qualità assoluta delle sue automobili, e questa è stata sempre la sua forza, tant'è che essendoci nel frattempo anche un richiamo molto importante da parte di Honda su un problema all'azionamento elettrico del finestrino di macchine di piccola cilindrata, della Jazz in particolare, in questo momento ci si sta anche chiedendo se questa industria giapponese forse è cresciuta troppo al punto di non essere in grado di seguire tutta questa produzione con la qualità che ci si aspetta appunto da un costruttore di questo genere. Se non ricordo male, anzi non è che lo ricordo io, lo leggevo, questo scandalo costò alla Mitsubishi 11.000 posti di lavoro, un quarto della sua forza lavoro di allora, e per sopravvivere fu costretta a cedere il controllo della società al gruppo Daimler Chrysler. Esatto. Io devo ricordare un paio di informazioni di servizio. Per tutti coloro che vogliono avere informazioni sul tema delle strade e dei motori, abbiamo un nuovo programma ogni domenica alle 16.30, Strade e motori per l'appunto, condotto dal nostro Massimo Di Scienza. Quattro ruote a febbraio, grande inchiesta, cosa c'è dietro al business delle contravvenzioni, questo devo ricordarlo in 10 secondi, direttore, per chi avesse il dubbio di avere un'auto, come dire, a rischio, ma anche il dubbio di non essere raggiunto dalla comunicazione di Toyota. Iota cosa fa? Va a visitare il sito del Ministero dei Trasporti? Sì, il sito del Ministero dei Trasporti, appunto, oppure appunto il sito della Toyota. Chi ha un'automobile di un certo modello farebbe bene ogni tanto a visitare il sito della marca, perché lì Benissimo. Sono sempre delle informazioni utili, e questi sono diritti, nel senso che tutti questi interventi devono essere effettuati gratuitamente e tempestivamente, quindi facciamoli valere questi diritti. Grazie a Mauro Tedeschini, a direttore di Quattro Ruote, buona giornata. Buona Alessandro. Giornata. Alle 12. Salva Danaio, Polizze Dormienti. Buona giornata. Alle 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano. Silvio Berlusconi dice: ho un sogno, portare Israele tra i paesi dell'Unione Europea, è la promessa fatta al primo ministro israeliano Netanyahu all'inizio della visita di 3 giorni in Israele. Domani Berlusconi parlerà alla Knesset, il Parlamento israeliano, poi vedrà il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen. In Italia da oggi alla Camera si discute il legittimo impedimento, la legge che si propone di sospendere i processi per chi ricopre cariche di governo. Quasi 300 gli emendamenti presentati, con l'opposizione che annuncia battaglia. Parte del denaro della mafia fu investito per costruire Milano 2, il progetto edilizio di Berlusconi, lo ha detto ieri in aula bunker a Palermo Massimo Ciancimino, il figlio dell'ex sindaco mafioso Vito Ciancimino. Sono diffamazioni, risponde l'avvocato Ghedini, che annuncia querela. Infine, 3 notti di folli feste prima di giocare il derby perso contro l'Inter. Protagonista, secondo quanto rivela il Corriere della Sera, Ronaldinho. Il brasiliano del Milan avrebbe affittato una suite in un lussuoso hotel di Milano, avrebbe speso in 3 giorni con amici 75.000 euro, suite lasciata il sabato mattina poco prima della partita, poi persa contro i nerazzurri. E allora alle 8:34 minuti il sondaggio nostro di oggi, votatissimo per il momento, parla di Romano Prodi. Romano Prodi. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Il Partito Democratico dovrebbe ripartire da Romano Prodi? Ci siamo posti questa semplice domanda, visto che c'è questo pressing totale, come l'ha definito lui stesso, perché si candidi a sindaco di Bologna, dove sappiamo il sindaco Del Bono si è dimesso dopo la vicenda che coinvolge la sua ex segretaria e compagna. Allora, voi su Radio24.it, deve tornare Romano Prodi? Siete divisi totalmente, sono oltre 5.000 già i voti arrivati, il 48% dice di sì, il 52% no. Spaccati a metà, ieri il nostro Stefano Totoro ha raggiunto Romano Prodi, e poche parole, però sentiamo che ha detto l'ex presidente del Consiglio. È un pressing talmente totale che non si sa cosa dire. La mette di buon umore almeno questo pressing? Beh, stamattina passeggiavo, ti fa piacere, ecco. Ti fa piacere. Ma poi sa, lei sa della vita che queste cose finiscono in fretta, no? Mai illudersi. Mai illudersi. E poi sentiamo ancora Romano Prodi, ancora qualche battuta al nostro Stefano Totoro. Io non ho comunicato nulla ai vertici del partito, perché non c'erano richieste ufficiali, come non ci devono essere in questi casi, insomma. Queste cose uno le deve decidere con la propria coscienza e basta. Il titolo dell'agenzia è: Prodi non si candida. Lo prenda come tale. Allora, lo prenda come tale. Voglio salutare Piero Sansonetti, buongiorno, direttore degli Altri. Buongiorno Sansonetti. Allora, ci si deve credere a un Romano Prodi che ritorna in pista, o il PD dovrebbe ripartire da Romano Prodi? Che ne pensa? Ma io penso che sarebbe un'ottima idea. La candidatura di Prodi al sindaco di Bologna mi sembra sarebbe una cosa positiva, giusta. Temo da una parte che il professor Prodi non abbia voglia, abbia forse deciso troppo definitivamente di chiudere con la politica attiva 2 anni fa, e che quindi non ceda alle pressioni. Temo dall'altra parte anche che le pressioni non siano così forti, ecco, io ho questo sospetto, che il Partito Democratico forse non sarebbe felicissimo, pur sapendo che naturalmente per la sinistra, per Bologna è una bacchetta magica, perché è certo che Prodi vincerebbe a Bologna e vincerebbe molto bene e risolverebbe un problema drammatico in quella città, perché in modo come è finita la giunta governi e giunte precedenti. Io credo sono stati fatti degli errori politici anche nella conduzione della crisi, forse Del Bono non doveva essere, sì. Comunque la ferita è grande ed è difficile, Prodi potrebbe risolverlo, e Prodi potrebbe però, e questo è un fatto secondo me positivo, ma che può essere visto con sospetto dal Partito Democratico, rimettere in moto una politica che era stata accantonata dal Partito Democratico alla sua nascita, cioè una politica di coalizione più larga. Un ritorno di Prodi potrebbe significare un po' la fine di questa breve esperienza del Partito Democratico, che era stato, diciamo, il ritorno dell'ulivo, e per questo lei dice dell'ulivo, beh, è evidente che sarebbe un po' questo, no? E sì. Molti, io penso che non è che sarebbero felici, quindi non sono sicuro che saranno così forti le pressioni. È per questo che quando Prodi dice queste cose finiscono in fretta, mai illudersi, forse vuol dire così. Esatto. Ho avuto anch'io esattamente questa sensazione, che Prodi, che è uno degli uomini politici più esperti in Italia, questa cosa la sappia bene, quindi forse il fatto che probabilmente, se davvero gli si chiedesse di farlo, lui farebbe anche, penso che sarebbe un sacrificio per lui, però un sacrificio forse anche gradito, io penso che alla fine lo farebbe, ma ho paura che il Partito Democratico non lo voglia fino in fondo. Qualcuno dice, in realtà chi non vuole è la moglie, che tra l'altro forse abbiamo sentito in sottofondo mentre il nostro Stefano Totolo lo intervistava, è la moglie che pare abbia detto, da meno del retroscena, no, insomma, ha visto anche come è rimasto scottato l'ultima volta, l'esperienza di governo, qualcuno dice pugnalato da coloro che lo avevano richiamato da Bruxelles, e quindi forse non vuole. Voglio salutare Alessandro Sallusti, che torna con noi, con direttore del giornale, ben ritrovato Sallusti. Buongiorno. Oggi il giornale, in un editoriale tra l'altro di Vittorio Feltri, il titolo di apertura è Prodi respinge Bersani. Ma come verrebbe visto, secondo lei, da centrodestra il ritorno di Prodi? Come un rischio? Perché, come dice Sansoletti, anch'io su questo potrei essere d'accordo, secondo me vincerebbe a mani basse al Comune di Bologna, oppure come che cosa? Come una speranza, come dire, guardate dove sono arrivati il PD, a riesumare Prodi? Ma io credo che il problema ovviamente non sia il Comune di Bologna, dove Prodi sicuramente vincerebbe a mani basse, ma questo non deve fare illudere che Prodi possa essere l'uomo nuovo per ridare vita a una sinistra competitiva. Del resto la prova di questo è nel sondaggio che state facendo in questo momento. Io presumo che a votare siano soprattutto elettori del centrosinistra, che, come dire, appassionati al tema, e come dimostra il vostro sondaggio, che se non ho capito male 50-50, così 48-52, ecco, 50-50 vuol dire che Prodi in questo momento spacca ulteriormente la sinistra. Verrebbe da dire, con una battuta molto veltroniana, che Prodi torni ma anche no. Prodi torni ma anche no. 50-50 significa che il popolo della sinistra si spaccherebbe su Prodi, come del resto è inevitabile, e poi condivido l'analisi di Sansonetti, nel senso che il PD non ha nulla a che fare con Prodi, anzi quasi il PD nasce contro il progetto di Prodi, il progetto dell'Ulivo, cioè il progetto di tenere assieme una sinistra molto ampia, compresa la radicale. Veltroni e il PD nascono per un progetto opposto, il primo ha fallito alle urne, ha fallito nell'esperienza di governo, il secondo non sembra, come dire, capace di superare questa crisi, però sarebbe un tornare indietro un'esperienza fallimentare. Quella dell'Ulivo, anche se per esempio un messaggio al 349-238-6666 ci scrive, noi bolognesi Prodi lo vogliamo, ma sono i burocrati del PD che non lo vogliono, un po' come ha detto Piero Sansonetti, cioè a dire forse non è che c'è poi questo grande pressing da parte del PD. Ma sentiamo alcuni ascoltatori che ne pensano. Vorrei partire proprio da Bologna. Roberto, buongiorno. Oh, lo vorrebbe Prodi sindaco? Si riparte da lì? Ma io ascolto i giornalisti, ascolto i politici, sto a Bologna, vivo a Bologna, mi interrogo e mi domando quanto lontano veramente siete tutti dalla realtà. Ma poi tutti così sicuri che noi vogliamo nuovamente un dinosauro? Basta quei dinosauri, basta con questa vecchia classe politica, basta. Questo è il mio commento. Beh, abbastanza emblematico, grazie Roberto. Gianluca da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io, secondo me non deve, cioè il Partito Democratico è in crisi e non si deve aggrappare al passato con una persona che sicuramente è stata degna, però adesso se non sbaglio ha anche più di 70 anni, no? Cioè, siamo una repubblica che deve sempre tirare fuori dal cassetto questi vecchi, cioè se il Partito Democratico è in crisi piuttosto affronti la crisi e metti una persona giovane e non sempre andare a tirare fuori i soliti noti. No. Lui è stato... Ma guardi che nei retroscena oggi sui giornali pare che, siccome c'è stata una telefonata tra Bersani e Prodi, pare che Prodi proprio abbia detto a Bersani: ma un giovane valido non c'è. Insomma, cioè lo stesso Prodi si rende conto e ha sempre detto: io sono fuori dalla politica. Però Gianluca, lei ribadisce come Roberto da Bologna: insomma, basta questi vecchi. Sansonetti. Questo sarebbe anche un'idea su cui discutere, insomma, il ricambio generazionale, voglio dire, come la mettiamo, voglio dire, dovesse tornare Prodi, insomma, che immagine diamo anche di rinnovamento della classe dirigente nel paese? No, ma questo sicuramente è un problema, perché il problema del rinnovamento della classe dirigente si pone chiaramente, però io vedo l'emergenza di Bologna, non è che non penso, diciamo, che il rinnovamento della classe dirigente della sinistra italiana potrà avvenire a partire dal sindaco di Bologna, ecco, mi pare improbabile, è un processo un po' più grande che bisogna compiere, che prevede uno sbalzamento politico, una scossa politica, anche un cambio di politica, perché non è che si può pensare che si cambiano, magari si ringiovanisce un po' per cooptazione, come si è sempre fatto, i vecchi chiamano dei ragazzi. Ringiovanimento, secondo me, per capirci, sicuramente è Firenze, dove un giovane sindaco ha vinto le primarie, bene, travolgendo il sistema dei partiti, sicuramente, secondo me, anche se non è proprio un bambino, è anche la Puglia, dove uno da solo è riuscito a sconfiggere il sistema dei partiti, però vedete, è un processo un po' più complesso. Io ho l'impressione, lo dico paradossalmente, capisco che è difficile capirmi, forse nessuno può capirmi, ma che Prodi paradossalmente potrebbe essere l'avvio di un rinnovamento, ovviamente non nella sua persona, non nel vecchio leader settantenne, ma un rinnovamento nel senso dei partiti che fanno un passo indietro e dicono: beh, a Bologna ci affidiamo a un personaggio come lui, che insomma mi sembra che ha dimostrato più volte che sa anche farsi indietro, fra i nostri uomini politici, uno di quelli che più volte è stato capace di tornare indietro, e certamente se torna a fare il sindaco di Bologna non è che dà a nessuno la sensazione di essere un aggrappato al potere, non lo fa per motivi di potere, se lo fa per, mi sembra uno dei pochi casi in cui è evidente che se lo fa per perché ci crede, insomma. Dopodiché quello che dicono i due ascoltatori è giustissimo, la questione del rinnovamento certamente si pone. Io sarei per non partire proprio questa volta da Bologna, ecco. proprio da questa città. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Il Partito Democratico dovrebbe ripartire da Romano Prodi, in questo caso a Bologna. Questo oggi ci chiediamo. Io voglio chiedere tra l'altro all'onorevole che ci ha raggiunto, Giancarlo Mazzucca. Buongiorno, onorevole Mazzucca. Buongiorno. Allora, onorevole, non me ne voglia, ma insomma, oggi lei tra l'altro è anche sul Corriere della Sera. L'onorevole Mazzucca è stato candidato prima alla regione Emilia-Romagna, è così? Mi corregga se sbaglio. Sì, è stato candidato alla regione Emilia-Romagna, poi c'è stato qualche problema, poi è successa la vicenda del bono, allora ha detto: allora la candidiamo a sindaco di Bologna. Adesso lei è candidato a sindaco di Bologna per il PDL. Ora i giornali dicono: attenzione, perché rischia anche di saltare la candidatura a sindaco di Bologna, perché l'UDC non è molto contento. Queste sono magari beghe interne sulle quali le chiederò intanto se lei si sente sindaco, se lei si sente candidato al 100%, insomma, del PDL a Bologna. Ma guardi che non sono stati problemi interni, è proprio il contrario di quello che lei ha detto, nel senso che io ero stato indicato per la regione con un voto unanimo del coordinamento emiliano-romagnolo, poi ratificato dal coordinamento nazionale, considerato la persona giusta al posto giusto come candidato alla presidenza della regione. Quando c'è stato questo voto, chiaramente non si sapeva la vicenda di Bologna e con le dimissioni del bono. Nel momento in cui ci sono state le dimissioni del bono e dovevamo rispondere in modo chiaro e sicuro a un'emergenza molto importante, il coordinamento nazionale ha ritenuto che io comunque fosse la persona più giusta anche a livello di Bologna. Sì. E in questo momento io ho scelto Bologna perché ritengo che Bologna sia in questo momento più prioritaria la soluzione di Bologna rispetto a quella di Emilia-Romagna. Però lei avrà visto... Confronti, ma è stato un doppio riconoscimento. Certo, però forse lei, non so se ha già letto il giornale, il Corriere della Sera, per esempio, oggi dice in caso di accordo con l'UDC, Mazzucca verrebbe addirittura scandidato anche a sindaco di Bologna, con tanti grazie per l'impegno, e però verrebbe scandidato, insomma, non... Accettare che me l'hanno imposto, nessuno ha accettato, sì, di buon cuore, perché amo la città di Bologna, sono di Bologna e quindi ho scelto questa corsa per il bene di Bologna. Se per caso si dovesse raggiungere un accordo e si dovesse proprio per questo accordo scegliere un'altra persona, io per il bene della città mi tiro indietro, perché non faccio mai un discorso di personalismi, ma faccio un discorso per il bene della città. Quindi è importante che mi sono messo a servizio della città e del PDL e dello schieramento di centrodestra. Se poi per fare un accordo con l'UDC oppure un altro candidato, chiaramente io non sono il primo a dire vabbè, l'importante è che si vada uniti, perché quello che è successo a Bologna mostra che non possiamo andare avanti con queste beghe interne di partito o beghe che sono soprattutto l'UDC, ma dobbiamo cercare tutti gli uomini di Bologna di trovare una soluzione per il futuro di questo. Allora, onorevole, le devo chiedere che ne pensa di Romano Prodi, perché qui con Piero Sansonetti, con Alessandro Sallusti che la stanno ascoltando, discutiamo di questo. Senta, intanto, ci fosse Romano Prodi candidato, sia Sansonetti che Sallusti dicono vincerebbe a mani basse, insomma sarebbe una partita persa, lei crede, in partenza? A me farebbe molto piacere affrontare Romano Prodi, lo conosco da una vita, credo che lui mi stimi, io lo stimo comunque, e poi l'importante è, se l'avversario è uomo di onore, a maggior ragione la sfida è ancora più importante, quindi rivaluto anche il mio ruolo. Chiaramente le difficoltà sono maggiori, ma in questo momento, ripeto, non si tratta di portare avanti una campagna di personalismo, si tratta di cercare di trovare la soluzione migliore per Bologna. Se i bolognesi ritengono che Prodi è la persona giusta, accetto volentieri questo incarico. Io accetto volentieri questa decisione veramente dei bolognesi. L'importante è che Bologna esca da questo impasse. Deve deciderlo prima il PD, dovrebbe deciderlo. Ma come la vede dalla parte del PDL il fatto che si possa tornare dalla parte del PD da Romano Prodi? Voglio dire, sarebbe sicuramente un... Ma questa è la dimostrazione che si va avanti con le vecchie prassi politiche. Io vengo dal giornalismo, quindi non sono abituato a queste alchimie politiche. Occorre, secondo me, agire concretamente, pensando a quello che si può fare per risollevare la città da uno scandalo clamoroso, perché questo di Verbono chiaramente non è mai successo che un sindaco si dovesse dimettere dopo 7 mesi. E quindi la città, che era già affossata da molto tempo, perché c'era stata in precedenza la gestione Cofferati e anche la gestione Guardaloca aveva lasciato qualcosa a desiderare, ecco, è chiaro che a questo punto occorre assolutamente evitare le solite battaglie. Certo che di fronte al nome di Prodi, la disponibilità di Prodi, mi sembra clamoroso che poi il PD lo lasci fuori. Quindi lei dice di fronte, che poi disponibilità non è stata ancora confermata. Io vorrei tornare per un attimo da Alessandro Sallusti. Sallusti, però, molti identificano il centro-sinistra Prodi come la personalità, come ha detto Sansonetti, forse più retta, voglio dire, anche nello scorso governo, insomma, che fino alla fine molti hanno conosciuto l'onore delle armi, è andato fino in fondo, poi ha visto che la coalizione, che era una coalizione molto frammentata, sappiamo, litigiosa, non le ha fatto mancare i voti al Senato, ma voglio dire, forse le accuse non sono state mai da parte del popolo di centrosinistra verso Romano Prodi, che anzi è stato salvato come l'emblema, insomma, la faccia più presentabile di quella coalizione. Lei non è d'accordo che potrebbe ripartire da qui, in questo si potrebbe ripartire come centrosinistra? Ma vede, dire il popolo del centrosinistra è dire tutto e dire niente, perché quale spicchio del popolo del centro-sinistra amava Romano Prodi? Gli ex democristiani, gli ex comunisti, i verdi, era difficile. Prodi, come dire, secondo me Prodi non era amato da nessuno, ma era voluto da tutti, perché era l'unico che era disposto a tenere insieme tutti e quindi a dare un piccolo spicchio di potere ad ognuno delle componenti. In però si ricorda insomma chi le critiche furono, Mastella ha fatto cadere la sinistra, adesso mi odierà Sansonetti, insomma la sinistra radicale che ogni volta chiedeva qualcosa fuori dal programma, insomma quelli venivano identificati come coloro che fecero fallire tutto. Beh, loro sono quelli che hanno messo fuori, come dire, hanno messo fuori la faccia, perché comunque avevano anche un elettorato a cui rispondere. Questo elettorato non era certo un elettorato prodiano nel senso classico, diciamo che per questi signori Prodi era il male minore. Io credo che i nemici veri però di Romano Prodi erano proprio all'interno del PD, cioè all'interno della classe dirigente del PD, che poi ha cercato di sostituirlo senza grande successo, da Veltroni a D'Alema soprattutto. Insomma, D'Alema già gli fece, come dire, uno scherzetto durante il primo governo e ne prese il posto. Veltroni ha lavorato a lungo per, come dire, aspettare il momento buono per prenderne il posto. E, insomma, i nemici veri di Prodi sono all'interno del PD, i quali, ma anche legittimamente, insomma, il partito di maggioranza relativa di quella coalizione, cioè gli ex comunisti, è dura farsi governare da un ex democristiano. Insomma, è la missione di una sconfitta storica. Era il male necessario e per cui era sopportato da tutti, ma sicuramente non era amato da nessuno, per cui anche per questo vedo difficile un suo ritorno. Ma sì, è difficile anche sentite le parole dello stesso Romano Prodi. Io mi devo fermare qui ringraziando Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, l'onorevole Giancarlo Mazzucca che sono stati con noi. Continuate a votare per ora sempre. Romano Prodi deve tornare, il PD deve ripartire da Romano Prodi. Il 52% di voi dice di no, ma quindi siete divisi. Ci fermiamo, la linea va a Oscar Giannino, ringrazio Sara Spreafico in redazione, così come Peter Bescapè in regia, e ci troviamo bianco e nero e radio24.it domani mattina.